Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di energia e ambiente, energia e clima. Lo facciamo sulla base del libro di Alberto Clò. Buonasera, professor Clò. Buonasera a voi. Energia e clima è proprio il titolo di questo libro, L'altra faccia della medaglia. Un libro che illustra un tema particolarmente dibattuto, particolarmente difficile, e lo dimostrano le prime righe di questo libro, in cui si dice: parlare e dibattere di energia è divenuto ormai impossibile, in un continuo logorante scontro tra opposte fazioni, ove le reciproche demonizzazioni fanno agio su ogni sereno confronto. Ecco, queste sono le prime righe. È un libro in cui si parla di un grande problema, il problema della vita quotidiana di tutti noi, dell'ambiente in cui viviamo. È un problema di cui si parla spesso, ma di cui soluzioni e interventi concreti si vedono sempre meno. Un libro un po' amaro, professor Clò. Cioè, amaro se lo si paragona rispetto, diciamo, al pensiero unico dominante. Allora io premetto subito che non sono negazionista, quindi non lo sono semplicemente perché non ho le conoscenze scientifiche in grado di contrappormi, diciamo, al pensiero dominante della comunità scientifica, come emerge, diciamo, dai rapporti delle Nazioni Unite, come è stato ribadito a Parigi. Quindi non voglio, dovrei scegliere sulla base di cose di simpatie, no? E quindi io non sono negazionista. E quindi sostengo che, quindi prendo per vero il fatto che se non si interviene con urgenza, sottolineo urgenza, di fronte a noi si apre un baratro, che, diciamo, e qui veramente siamo nella sedia, non ci rimette al peggio. E quindi mi sono avvicinato a questo tema con una grande cautela, uno perché è di una complessità enorme, due perché appunto devi acquisire la capacità critica di valutare, diciamo, no, le origini, quindi le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti che ne possono derivare e le possibili soluzioni. Questo spiega perché, diciamo, mi sono armato di una biografia molto molto molto potente. Ci sono circa 400 titoli riportati in biografia e posso assicurare che li ho letti. Però mi sono avvicinato anche, diciamo, non voglio nascondere, con timore, proprio per le frasi iniziali che lei ha indicato. Timore di essere, diciamo, schiacciato tra opposte fazioni, che spesso, diciamo, si configurano più come delle sette religiose che non come dei think tank che sostengono le loro tesi. E se noi andiamo a vedere, quindi da una parte i negazionisti, che sono ciechi e sicuri della loro verità. Cioè, che dicono di no a tutto, in pratica, al nucleare. Negazionisti sono quelli che non è vero che ci sono cambiamenti climatici, sì. Che non è vero che non è vero. Tra l'altro ci sono anche personaggi di grandissimo livello, premi Nobel, Levi Montalcini, Cerubbia, però, come dico, non sono in grado di. Dall'altro, dall'estremo opposto, no, ci sono i fondamentalisti. I fondamentalisti che paventano, diciamo, il peggio che possa accadere, tra l'altro con argomentazioni, con slogan talvolta irritanti. Prendiamo Al Gore, che è diventato, che era vicepresidente degli Stati Uniti, premio Nobel, eccetera, che paragona la lotta ai cambiamenti climatici alla lotta al nazismo. Io di fronte a affermazioni del genere resto esterrefatto. Oppure certe sette americane. Riporto nel libro, per esempio, riferimenti a una setta, insomma, a un gruppo ambientalista che si chiama Deep Ecology, ecologia profonda, che sostiene che la natura, nelle sue diverse manifestazioni, e quindi la fauna, negli alberi, financo le formazioni rocciose, hanno diritti superiori a quelli dell'uomo. Ecco, allora, da noi, diciamo, non siamo arrivati nel nostro paese ancora, in Europa, no, in America sì. Ecco, di fronte a questa contrapposizione, no, rischi veramente di trovarti strumentalmente anche, no? Affiancato agli uni e agli altri. Beh, il libro però ha il merito, mi consenta, di illustrare il tema in maniera molto oggettiva. Lei ha una grande competenza su questo fronte, possiamo ricordarlo, che è stato anche ministro dell'Industria e del Commercio, è stato professore ordinario di Economia Applicata e direttore della rivista Energia, quindi conosce il tema e dimostra di conoscerlo, ma in questo libro appare anche come se in fondo lo sviluppo della politica energetica sia difficile da governare, vada un po' avanti secondo delle logiche, diciamo così, naturali, in cui servono poco incentivi, investimenti, ricerca, e peraltro lei dimostra che di ricerca se ne fa molto poca, molto meno che in altri settori in campo energetico, che le aziende energetiche non sono neanche più le più importanti. Un tempo erano le prime al mondo, adesso non ce ne sono di aziende energetiche tra le più importanti del mondo, quindi un po' l'economia diciamo riesce a prescindere dall'energia, e questo è un fondo anche un po' il suo rammarico di fronte a questi temi. Sì, io penso che molte decisioni sono già state prese e dovranno essere prese. Prendiamo l'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi sicuramente è stato un grande successo politico-diplomatico internazionale, ma il mio intento è duplice: una, dirla tutta, dire le cose come stanno; due, aprire un confronto, ma mi sembra molto difficile. Chiuso parentesi, cioè gli obiettivi di Parigi, no? Quella contenere l'aumento del riscaldamento al massimo entro i 2 gradi centigradi, probabilmente entro l'1,5, tecnicamente è impossibile. Nei tempi, no, della dimensione che sostiene, nei tempi, è tecnicamente impossibile. La transizione energetica, è il termine con cui si parla del superamento del dopo fossili, quindi liberare il mondo da petrolio, gas e carbone. In sé è una obiettivo condivisibile, ma farla facile, certo, sostenendo che le soluzioni sono dietro l'angolo, basta volerlo, e ingannare l'opinione pubblica. Perché pochi dati, per non, diciamo, rendere la conversazione, diciamo, pesante. Oggi il rapporto, ma non perché difendo gli uni e contro gli altri, oggi il rapporto fra fonti fossili e nuove rinnovabili, che dovrebbero essere quelle che, diciamo, sostituiscono, sono sostanzialmente lo stato delle cose solare e eolico. Sì. Il rapporto oggi è circa 30-1, 86% dei fossili, nemmeno il 3% dei nuovi rinnovabili. È il rapporto che c'è tra il reddito pro capite degli Stati Uniti e dell'Etiopia, solo che nel secondo caso è più facilmente, diciamo, percepibile. Se si sostenesse l'Etiopia diventerà i nuovi Stati Uniti, no, non stanno così le cose. Potrà essere un ideale di riferimento, ma non potrà mai essere un approdo finale. Anche perché le fonti fossili, una volta si diceva il petrolio prima o poi finirà, adesso sembra che siano... devo dire, quella era un'altra Sol, scusatemi il termine, che ha dominato per anni. Siamo letteralmente sommersi dal petrolio e dal gas, per non parlare del carbone. Ora, io non metto in discussione la necessità di ridurre l'intensità carbonica. Peraltro, l'intensità carbonica, se noi guardiamo nei secoli, perché un altro, diciamo, argomento che sostengo nel libro è che noi dobbiamo guardare la storia per chiederci la transizione che oggi proponiamo, che anzi i più, virgola, interessati, virgola, sostengono come possibile, no? La storia insegna, noi abbiamo avuto altre grandi transizioni energetiche, 2. La prima dalla legna al carbone, che dà origine alla prima rivoluzione industriale, poi dal carbone al petrolio. La prima, diciamo, nasce dalla combinazione carbone-acciaio sostanzialmente, la seconda petrolio, elettricità, chimica, motorizzazione. Ebbene, se noi guardiamo quelle transizioni, ci è voluto per il carbone, per il petrolio, un secolo per divenire dominanti, un secolo. Questa volta si sostiene che invece le nuove rinnovabili possono divenire dominanti in due decenni. Il gas, ad esempio, ha impiegato 50 anni per passare dall'1% al 50%, dal 1900 al 1950, e 85 per arrivare al 20%. Ora è possibile che le nuove rinnovabili che hanno raggiunto l'1% nel 2008, nel 2020 a 30 possano divenire dominanti? No. Spesso, molto spesso, dietro questa, questo sostenere la possibilità che ci sono legittimi interessi economici. Ecco, di questi bisogna parlare, ne potremmo parlare a lungo, purtroppo il tempo è quello che è e ha consumato un po' tutto lo spazio che dobbiamo dedicare a questo libro. È un libro che ha però molti spunti di riflessione, ha molti dati, ha molti elementi, ha un, diciamo, confermo da lettore, un pessimismo di fondo, ma un pessimismo che nelle ultime righe poi viene compensato dal fatto in cui si dice la rassegnazione e il pessimismo non devono avere buon gioco. Cominciamo a cambiare noi stessi e il nostro sistema di valori, che non possono essere i medesimi che stanno mettendo a rischio le sorti del pianeta. E conclude il professor Clo, e questo è il vero nocciolo della questione. Io concluderei qui, professore, proprio nel senso di conoscere questa realtà, conoscere le tendenze, tendenze che ci sono, dinamiche che possono essere anche influenzate dalle scelte di ciascuno di noi, dalle scelte soprattutto dei politici. Grazie professore di essere stato con noi. Buonasera. Buonasera, abbiamo parlato del libro Energia e Clima, l'altra faccia della medaglia, scritto da Alberto Clo, edito dal Mulino, sono 256 pagine per 23 euro. Grazie anche a Carmelo Laricella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per settimana prossima.